9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, buon mercoledì 8 settembre. Al centro della riflessione di oggi nostra, la richiesta che vi facciamo è quella di darci le vostre opinioni a seguito della decisione assunta ieri all'unanimità dal direttivo di Federmeccanica, la federazione delle imprese nella meccanica, appunto, iscritte a Confindustria. Che cosa ha deciso ieri all'unanimità il direttivo di Federmeccanica? Di dare il mandato al suo presidente Pierluigi Ceccardi per recedere unilateralmente, quindi, dal contratto dei metalmeccanici. Detta così sembra un'iniziativa provocatoria, unilaterale, e quindi bisogna che io vi spieghi, per chi non fosse addetto ai lavori, di che cosa si tratta davvero. Perché la situazione nel settore dei metalmeccanici è attualmente disciplinata, per così dire, da una stratificazione di intese. Perché questo contratto da cui recede Federmeccanica è quello del 2008, l'ultimo firmato dalla FIOM CGIL. Però, come tutti ricordiamo, nel febbraio del 2009 poi le relazioni industriali italiane hanno fatto un significativo cambio, perché si è firmata un'intesa interconfederale sulle nuove regole sugli assetti contrattuali, cioè si è definita una cornice generale in testa a tutti i contratti di categoria in vista di una doppia novità che ha profondissimamente innovato le relazioni industriali del nostro paese, con due binari nuovi. Quali sono questi due binari? Il primo, l'apertura al cosiddetto salario di produttività, cioè un salario, una quota della retribuzione contrattata in maniera decentrata, laddove è meglio poter disciplinare i turni, gli orari, l'utilizzo degli impianti, per consentire alle imprese di agganciare al meglio la ripresa, di assecondare al meglio l'evoluzione della domanda, perché produrre un'automobile non è la stessa cosa che produrre una macchina industriale o un robot elettromeccanico. Un'azienda è diversa dall'altra, e quindi in questo modo, inseguendo più da vicino le specifiche esigenze di come dare una risposta alla domanda, è meglio possibile anche fare questo nuovo scambio, cioè tra più produttività da una parte e più salario detassato, è tassato solo al 10% per i lavoratori. E questa è la prima novità, il primo binario delle intese interconfederali del febbraio 2009. La seconda novità è quella di aprire a deroghe rispetto al contratto nazionale, deroghe contrattate, cioè tra imprese e sindacato, ma deroghe rispetto all'intangibilità sia per la parte salariale che per la parte normativa del contratto nazionale precedente, che per lunghi decenni ha ingessato in maniera rigida, intoccabile nella parte salariale e normativa le relazioni industriali del nostro paese. Quell'intesa del febbraio 2009 la CGIL non la firma, non è d'accordo per niente e difende l'intangibilità del contratto nazionale. Dopo quella intesa interconfederale firmata dopo aver atteso per anni e anni la CGIL al tavolo, perché si era alzata all'inizio della presidenza Montezemolo di Confindustria, non era tornata al tavolo, e per non forzare tutti hanno aspettato che la sola CGIL cambiasse idea. La CGIL non ha cambiato idea. Dopo anni di attesa, Confindustria e tutti gli altri sindacati firmano quell'intesa sulle nuove relazioni industriali, dopo la quale si firmano nuovi contratti nazionali che a quel punto si ispirano a questa svolta con questo doppio binario. E anche per i metalmeccanici, quindi, nell'ottobre del 2009 arriva un nuovo contratto sottoscritto da Federmeccanica, sottoscritto dalle organizzazioni dei meccanici della CISL, della UIL, dell'UGL, della FISMIC, ma non dalla FIOM, l'associazione dei meccanici della CGIL, che appunto oltre a una nuova disciplina per la parte salariale nazionale che riguarda tranche di aumenti e una tranche suppletiva, sono finite già all'inizio del 2010, queste sono le tasche dei lavoratori, degli operai, per compensare la mancata perequazione del contratto precedente, fa propri i principi dell'intesa del febbraio del 2009. E FIOM quindi non firma, perché la CGIL era contraria a quella, la FIOM è contraria al principio del salario di produttività e soprattutto delle deroghe che vengono con queste nuove norme, sempre in maniera contrattata tra imprese e sindacato, ma che diventano un nuovo binario su cui installare la locomotiva e il treno delle relazioni industriali. La disdetta di ieri, deliberata all'unanimità da Federmeccanica, si riferisce appunto al contratto del 2008, superato nel giudizio convergente tanto di Federmeccanica quanto di tutti gli altri sindacati del comparto, tranne la FIOM, superato dalle intese del 2009. E perché si arriva a questa disdetta? Si arriva perché è evidente, come insegna la prima richiesta di applicazione su vasta scala delle deroghe, quella fatta dalla Fiat a Pomigliano, è evidente che la FIOM ha nel suo no a tutti i costi, nel considerare il nuovo contratto come non esistente, gli accordi che avvengono sulla base del nuovo contratto come provocazioni, i referendum che avvengono tra i lavoratori dove la FIOM perde, come è avvenuto a Pomigliano, delle lesioni di diritti, addirittura della Costituzione, dei referendum che si tengono secondo regole false, e da respingere su questa base, cioè sulla base di una contestazione che diventerà impugnativa e giudiziaria. Federmeccanica decide ieri, d'accordo nel convergente giudizio con gli altri sindacati che hanno firmato il nuovo accordo, tanto vale recedere unilateralmente dal contratto del 2008 e continuare a fare riferimento per tutti a quello del 2009. FIOM reagisce durissimamente. Oggi c'è un comitato centrale, vedremo che deliberazioni assumerà. Vi sono dei quotidiani oggi come l'Unità, che titolano Il pugno del padrone, e lo stesso titolo trovate nel commento di Luciano Gallino su Repubblica, Il pugno di ferro. Tutte le altre testate hanno valutazioni molto meno dure. Si tratta di capire qual è il significato di questo gesto, quali sviluppi avverranno nel mondo del lavoro, se questa convergenza tra più produttività e più salario detassato è la svolta che molti auspicano, io personalmente sì, e perché di fronte a questa svolta, cioè a un interesse convergente, vi è una parte, una grande organizzazione, ma una sola, che dice che si tratta di una provocazione, di lesione della Costituzione e delle leggi. Io vi presento subito gli ospiti della giornata, e devo però informare i nostri ascoltatori di una cosa che mi dispiace molto. La FIOM ha deciso ieri di non mandare nessun suo rappresentante, sostenendo che con me non parlerà più. Questo in relazione a un articolo che ho scritto sull'ultimo numero di Panorama sul mio blog Chicago Blog, Houston, qui FIOM abbiamo un problema, nel quale mi sono limitato a scrivere che Maurizio Landini, il segretario della FIOM, ha un problema, perché ha un problema con il resto del sindacato, con tutto il resto del sindacato, oltre che con tutta Federmeccanica e poi con la Fiat. Non ritengo di aver diffamato nessuno, ritengo di aver esercitato, secondo l'articolo 21, la piena libertà di opinione, e soprattutto sono molto stupito che chi esercita un dissenso così radicale nei confronti di tutto il resto del mondo del lavoro, sindacale e imprenditoriale, come la CGIL e la FIOM, nella CGIL in particolare, possa buttarmi fuori dal ring, disconoscendomi la natura di interlocutore giornalistico, proprio a me, che dissento nei suoi confronti con molta minore radicalità rispetto a quella che lei esprime nella Rengel della vita politica e sociale del nostro paese. Chi pratica il dissenso in maniera unilaterale, rivendicando di essere l'unico titolare dell'interpretazione della Costituzione e delle leggi, secondo la mia opinione dovrebbe avere almeno altrettanta tolleranza rispetto a quella che invoca rispetto alla radicalità del proprio dissenso. Non è così, io ve ne informo, sono molto dispiaciuto di questo e penso che comunque terremo presente sempre negli interventi dei nostri ospiti del fatto che la FIOM la pensa duramente al contrario e pensa che siamo in presenza di una durissima rottura rispetto alla quale animare durissime proteste. Non credo di meritare questo giudizio da parte, questa scomunica da parte di Maurizio Landini e dalla FIOM, ma ve ne ho informato. Allora, sono collegati con noi Pietro Di Biasi, che è il direttore delle risorse umane del gruppo Riva e membro del consiglio direttivo di Federmeccanica, che ieri all'unanimità ha preso questa decisione. Buongiorno Di Biasi. Buongiorno a lei. E abbiamo il professor Maurizio Del Conte, che insegna diritto privato e diritto del lavoro alla Bocconi. Buongiorno professore Del Conte. Buongiorno a voi. Allora, io comincerei con De Biasi. Da questo punto di vista, le reazioni che sono venute oggi, immagino un pochino ve le aspettavate. Possiamo chiederle qual è il percorso nella definizione insieme con i sindacati che sono d'accordo delle nuove regole e delle deroghe soprattutto che è possibile introdurre alla luce di una nuova intesa? Ma queste deroghe, quando si citano, sono deroghe che riguardano tutto il comparto, alcuni settori del comparto, c'è chi dice solo l'auto, c'è chi dice no. A che cosa stiamo andando incontro in realtà, De Biasi? Guardi, noi ieri credo che non abbiamo fatto un atto né rivoluzionario né eversivo, ma semplicemente un atto di, come dire, di chiarificazione della materia. Ora, per quanto riguarda il problema delle deroghe, dobbiamo partire da un presupposto. Il presupposto è che il contratto collettivo nazionale di lavoro è un contratto e come tale è liberamente derogabile dalle parti che lo hanno sottoscritto, perché noi di questo stiamo parlando. Il contratto collettivo nazionale di lavoro non è una norma, era una norma corporativa in altri tempi, ma nel nostro sistema è un contratto e come tale le parti che lo hanno sottoscritto possono liberamente derogarvi. Questo è un principio elementare che però purtroppo negli anni passati, come dire, è stato un po' dimenticato e trascurato. L'accordo di Pomigliano ha avuto il grandissimo merito di portare questo principio elementare, ma importantissimo, all'attenzione di tutti. E quindi quello che noi dobbiamo cominciare a fare da oggi in poi è regolamentare questa materia e questa possibilità di deroga, ma non sulla base di una rottura, come è stato detto, del diritto esistente o delle relazioni sindacali esistenti, ma semplicemente come applicazione di quello che è un sistema normale, peraltro presente in tutti i paesi più sviluppati, della libera derogabilità delle intese raggiunte tra le parti. Questo avrà adesso una prima sessione in cui cominceremo a identificare aree e materie di deroga, e poi avrà anche una specificazione per quanto riguarda la Fiat del settore auto più specifico per questo tipo di comparto. Però ripeto, è una innovazione dal punto di vista della realtà pratica della vita delle relazioni industriali, ma non è una rottura di sistema, perché è nella natura del sistema stesso il fatto che il contratto collettivo nazionale di lavoro possa essere liberamente derogato dalle parti che vi hanno sottoscritto. Perché in alcuni comparti, come per esempio nella siderurgia, dove esiste da sempre la peculiarità e la caratteristica di dover per esempio garantire il ciclo continuo, naturalmente, quindi ci sono esigenze specifiche di produttività, nel senso che gli impianti devono essere sempre aperti, sempre in funzione, ma perché lì storicamente le deroghe rispetto a contratti nazionali non hanno mai sollevato questo genere di problemi, e invece quando parliamo dei metalmeccanici questa carica simbolica così forte, così straordinariamente capace di generare tensione, si sprigiona inevitabilmente ogni volta? Ma guardi, il problema attuale, come lei ha lucidamente esposto, è chiaramente si innesta su un problema di non adesione della FIOM all'ultimo contratto nazionale. Noi abbiamo una situazione molto particolare, molto anomala, che è la FIOM che non ha firmato, ricordo, gli ultimi 3 dei 4 contratti nazionali, quindi non è una novità assoluta la mancata adesione all'ultimo contratto nazionale, perché negli ultimi anni la FIOM non ha firmato 3 degli ultimi 4 contratti nazionali, e la situazione paradossale è che un sindacato che non firma i contratti nazionali però si erge anche a difensore ad oltranza del contratto nazionale stesso che non firma. Ed è chiaro che essendoci questa, come dire, concorrenza di un contratto nazionale precedente firmato dalla FIOM, superato peraltro, e il recesso di ieri è stato semplicemente confermativo di un recesso già avvenuto nei fatti, perché il recesso avviene quando un nuovo contratto supera quello precedente, e la vita dei lavoratori e i rapporti delle relazioni industriali nelle aziende sono regolate dal nuovo contratto nazionale, tanto è che, come ha detto lei, le retribuzioni sono quelle nuove del nuovo contratto nazionale, non quelle vecchie, e quindi questa è la situazione di fatto. È chiaro che in una situazione di questo tipo l'accordo di Pomigliano non firmato della FIOM ha scatenato questa posizione di concorrenza tra contratti nazionali, e quindi la posizione della FIOM che ha invocato l'esistenza di un contratto precedente per non riconoscere deroghe che peraltro, come dicevo prima, sono assolutamente legittime. Il problema più che delle deroghe in sé è di avere un contratto nazionale che sia chiaramente riconosciuto come valido e efficace per tutti, come lo è nei fatti e come ieri abbiamo cercato di ribadire ancora una volta. Professor Del Conte, dal punto di vista del diritto, perché ha sentito che De Biasi dice qui si fa una gran confusione nel dibattito pubblico tra l'effetto erga omnes di un contratto di lavoro nel nostro paese finché è vigente, ma siccome i contratti rimangono in vigore finché le parti che li sottoscrivono vi si riconoscono, una volta che c'è la disdetta, o il recesso, che sono cose diverse, il recesso è più duro perché non lo fa restare in vigore con la clausola di ultraattività rispetto alla disdetta, ma però bisogna stare attenti, perché non vorrei, dice De Biasi, che si fosse l'idea che questa è una legge. Quindi insomma, la FIOM quando oggi dovrà decidere tra le reazioni che riterrà più opportune, essendo molto contraria e non qui presente, lo ripeto per questo, ma potrebbe anche imboccare la via di impugnative giudiziarie. Cioè, quali sono, dal punto di vista del diritto del lavoro, per chi non si riconosce in questo quadro di innovazione delle relazioni industriali, non vuole le deroghe, pensa che il contratto nazionale debba fare testo sia per la parte normativa che per la parte salariale, e dice: se apriamo alle deroghe, qui comandano i padroni, perché ci impongono in ogni singola impresa col coltello e dalla parte del manico, ci dicono o così o qui si chiude lo stabilimento, mentre invece solo in una contrattazione nazionale noi possiamo avere la solidarietà spalla a spalla di compensare la forza maggiore relativa dell'impresa nella singola impresa. E questa, insomma, è l'impostazione di fondo di chi dice no a queste nuove relazioni industriali. Ma chi la pensa così, loro, dal punto di vista del diritto, che tipo di impugnative possono in realtà percorrere nel nostro ordinamento, professor Del Conte? Guardi, qui bisogna distinguere due problemi. Il problema della disdetta di ieri in realtà non è in grado di creare le condizioni per impugnative allo stato dei fatti, perché la disdetta, come è stato giustamente sottolineato, lei stesso l'ha detto poco fa, ha valenza a partire dal 1 gennaio del 2012, quindi comunque la si voglia leggere, questa disdetta non introduce un fatto nuovo da oggi. Diverso è il problema più generale delle regole e delle loro deroghe da parte del contratto decentrato di secondo livello, quindi del contratto aziendale, laddove vi sia. Ecco, qui in realtà il rapporto fra contratto nazionale e contratto di secondo livello viene tradizionalmente regolato proprio da questi accordi. Noi ricordiamo l'accordo del luglio del 93 e adesso dal nuovo accordo del gennaio del 2009. Il nuovo accordo interconfederale del gennaio 2009 prevede la possibilità di deroghe rispetto a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale, laddove vi siano determinate situazioni, e in particolare queste situazioni vengono individuate come un rilancio della produttività, quindi un aumento di tutti quegli strumenti che sono volti a, da un lato, incentivare la produttività attraverso retribuzioni variabili e dall'altro a evidenziare, anche a incentivare, tutte quelle formule che rendano più efficiente l'organizzazione del ciclo produttivo. Quindi, essendo presenti queste condizioni, direi quasi il termine deroga è un termine eccessivo, è una nuova regolazione, è una riregolazione. In altri termini, se è lo stesso protocollo quadro che consente una nuova regolazione, la deroga è in realtà l'attuazione di questa direttiva generale del protocollo quadro. Bene, ora direi, dopo la pubblicità ci colleghiamo con Raffaele Bonanni, segretario generale della CISL. Ho molto pubblico che mi accusa di essere di parte, di non tenere presente le obiezioni di chi dice no, però se chi dice no dice che qui non viene perché Giannino è schifosamente di parte, io non so come fare il mio mestiere. Posso solo ricordare che la FIOM e la CGIL sono convinti che siamo di fronte a uno strappo epocale, e posso solo ricordare che però è una sola organizzazione a pensarla così, è storicamente importante. Seguito, questo non c'è dubbio, però quando si è votato a Pomigliano ha perso. E allora, se voi avete in mente che una minoranza blocca una maggioranza che aspetta anni la maturazione della FIOM e della CGIL, che non avviene, e di fronte a un mondo nuovo che ha regole nuove, che chiede alle imprese e ai lavoratori insieme di condividere degli interessi, da una parte più produttività e dall'altra più salario detassato, disegnandone insieme le condizioni, decidendone insieme l'applicazione, e voi considerate che questa è invece la storia che va indietro invece che va avanti, io non so cosa dire. Rispetto la vostra opinione, ma non credo che sia giusto fermare il paese perché una minoranza ritiene unilateralmente di avere l'interpretazione virtuosa di leggi, contratti e Costituzione. Ritengo che sia un errore, e lo dico con grande rispetto, quello stesso rispetto che però vorrei avere e voi veder praticato nei confronti di chi la pensa come me. Eccoci tornati in studio all'indomani del recesso da parte di Federmeccanica del contratto del 2008 superato da quello del 2009 dei metalmeccanici. Qual è il mondo nuovo delle relazioni industriali che si apre? Come mai tutte le altre organizzazioni sindacali, tranne la CGIL che non firma l'accordo interconfederale del gennaio 2009 e poi la FIOM che non firma il nuovo contratto dei meccanici a ottobre del 2009, come mai tutte le altre organizzazioni hanno un'idea così diversa rispetto a questa opinione così radicale che la FIOM si è rifiutata di venire a esprimerci qua oggi e che intende invece questa decisione condivisa come una rottura di una cornice costituzionale addirittura e poi di leggi, di diritti sanciti in contratti? Com'è possibile che ci siano opinioni così divergenti intorno a una parte del mondo del lavoro maggioritaria fatta di imprese e sindacati con storie diverse, con battaglie diverse, con interessi diversi da tutelare e che pure valutano passi come questo, cioè la condivisione con regole nuove, nuovi principi di una nuova realtà del mondo del lavoro dove c'è un interesse convergente, da una parte lo si considera come l'unica maniera per portare a casa obiettivi che interessano tutti, difendere le fabbriche attuali, l'occupazione, se possibile espanderle e contemporaneamente dare più soldi in tasca a quei milioni di lavoratori italiani, lo diciamo sempre, che da anni e anni hanno un apprezzamento di 0, del loro reddito, e dall'altra parte si dice no, voi state capitolando, voi vi abbassate le braghe, fate quello che vogliono i padroni. Ecco, questo è il tema del dibattito di oggi. Abbiamo con noi per sentire come la pensa Raffaele Bonanni, c'è il segretario della CISL che in questi anni insieme a lui, alla FISMIC, però lui ha messo molte volte la faccia più coraggiosamente di tutti invocando queste nuove relazioni, queste nuove regole. Raffaele Bonanni, oltre a salutarlo e ringraziarlo, gli chiedo come valuta la polemica e il dissenso che si confermano anche ieri da parte della FIOM e come valuta invece la prospettiva concreta di costruire insieme pezzi nuovi di regolazione nell'interesse anche dei lavoratori. Prego Bonanni. Non c'è da meravigliarsi molto del comportamento della FIOM perché ha scelto questa strada da diverso tempo, quando non si ritiene che sono le relazioni industriali il saper stare dentro il pluralismo sindacale, il saper stare dentro le regole di democrazia sindacale, quando si sceglie questa strada. Un esempio per tutti, basta riferirsi a Pomigliano quando si fa il referendum, la FIOM lo perde e non rispetta il responso della la maggioranza dei lavoratori. C'è da dire che loro sono terzi o quarti come sindacato a Pomigliano stesso, non rispettano neanche la volontà di tutti i sindacati. Quindi chi sceglie una strada del genere è chiaro che deve ricorrere alle iperbole e ogni giorno addirittura scomoda la Costituzione, quindi strilla lupo a lupo a lupo e quindi costruisce una situazione di tensione quale quella che sta portando avanti in tutte le aziende alla Fiat, per la verità con scarsissimo successo, perché solo questo è un modo per stare in piedi, per tentare di disturbare e così via. Quindi non c'è da meravigliarsi, non so fino a quando potranno contare in quel modo, perché il terreno lo stanno perdendo. A me dispiace moltissimo ragionare in questo modo, però appunto li abbiamo attesi, ci siamo appallati a loro perché ci possa essere una discussione, però niente, o è la loro giaculatoria o niente, non esiste la CIS, non esiste la UIL, non esistono altre imprese, come se le relazioni industriali potessero essere gestite con diktat degli altri, o prendono, lasciano e dopo naturalmente si scatena un putiferio. Non è quello che serve oggi all'Italia. Oggi al nostro paese, che ha un reddito pro capite che è tornato agli anni 90, ha bisogno di fare più reddito e di un prodotto che sia nei servizi, soprattutto nel manufatturiero, costa molto più di prima, che vuol dire che abbiamo disfunzioni di sistema notevoli. Dobbiamo curare la produttività nelle aziende per fare più forte l'azienda e per avere più salario, come a Pomigliano. A Pomigliano, dietro quell'accordo, non solo noi mettiamo in piedi un'azienda più solida che accoglie uno dei prodotti più importanti della Fiat, ma in quell'azienda noi avremo anche 4.000 euro lordi all'anno, questo abbiamo calcolato, e arrivando al 18° turno aumenteremo ulteriormente di 700 euro lordi al mese. E poi, avendo ottenuto anche quell'attenzione da parte del governo per trattare tutte le voci come le questioni della produttività, quindi pagandoci solo il 10% di tasse, il guadagno è importante. Non abbiamo altra scelta, o facciamo così o altrimenti sono out. Perché non guardiamo cosa fanno i sindacati tedeschi, che sono i più identici per forza e per tradizione a noi? Perché non guardiamo cosa fa la DGB? La DGB in questi lunghissimi mesi di crisi ha trovato ogni soluzione pur di non far delocalizzare le aziende e di trovare occasioni per mantenere l'occupazione. Noi in Italia abbiamo utilizzato a piene mani la cassa integrazione per far rimanere le persone ancorate alle aziende, e loro hanno utilizzato una cosa molto analoga, i turni corti li chiamano loro, che significa che lavorano finché possono lavorare, quello che manca lo paga lo Stato, esattamente come abbiamo fatto noi qui col contratto di solidarietà. Quindi perché un sindacato maturo e importante come quello tedesco, per esempio, se non vogliamo parlare del sindacato italiano o di una parte del sindacato italiano, non può essere un riferimento molto forte per un paese che sta uscendo prima degli altri dalle secche di una crisi che ha strangolato anche quell'economia qualche tempo fa? Un'altra domanda al segretario della CISL, che poi ci deve lasciare. Rispetto a chi prospetta una moltiplicazione di deroghe per comparto, sotto comparto, la prospettiva con cui la CISL e altre confederazioni, che invece vogliono definirle insieme queste regole, rispetto alle esigenze di un rilancio della produttività e dall'altra parte più salario detassato ai lavoratori, per come la vede lei oggi, rispetto ai tavoli che si aprono, rispetto al primo di verifica dell'auto che c'è il 15 settembre, noi abbiamo bisogno di definire insieme tra imprese e sindacato una proliferazione massima di deroghe, oppure sono deroghe che vanno per comparto e poi si vede azienda per azienda come aggiornarle tra sindacati aziendali e imprese? Come evolve questa necessità di contemperare con le deroghe contrattuali al più vicino possibile la produzione, l'interesse dei dipendenti da una parte e delle esigenze di produttività e di utilizzo degli impianti dell'impresa? Io spero che la nostra cugina, la CGIL, faccia ricorso alla migliore memoria che ha. Questi accordi, quelli cosiddetti in deroga, che servono appunto a trovare soluzioni appropriate per ogni situazione, non è la prima volta che le facciamo. È vero che taluni l'hanno ritenute delle iniziative onanistiche, e cioè si fanno ma non si dicono. Ma noi accordi del genere ne abbiamo fatti a migliaia nel corso dell'ultimo ventennio. Faccio un esempio: il Meridione è un disastro occupazionale. Quando ci sono degli investitori, e ci sono stati degli investitori, che volevano investire in quel posto, noi pur di spingerlo a fare un'operazione del genere, che ci viene a garantire appunto posti di lavoro e una minore desertificazione industriale di quella realtà, noi abbiamo offerto delle condizioni di start-up, che poi è più flessibilità, perfino meno salario e così via, perché meglio poco meno salario che zero salario, lo direbbe anche Catalano. Quindi queste cose noi le abbiamo fatte sempre. In definitiva, quando sti giorni noi diciamo sì, facciamo un patto insieme, noi e le imprese, facciamo un patto che laddove gli investitori italiani e stranieri vogliono investire in nuovi opifici, vogliono investire in nuovi servizi, noi gli offriamo delle condizioni in deroga, magari per un lasso di tempo stabilito, ma in deroga, perché interessa a noi stimolare il più possibile l'investimento in un momento di stanca dell'economia, anzi di grave difficoltà. Questo significa, perché vergognarsi di una opinione del genere, o bene che vada fare operazioni del genere senza dirlo? E io sono orgoglioso di aver lavorato in molti casi per situazioni di questo tipo. Tutti dobbiamo lavorare a che non ci sia una delocalizzazione verso altri paesi, e tutti dobbiamo lavorare a che i nuovi investitori vedano nel nostro paese un posto dove si può tranquillamente investire, come fa la Fiat con i 20 miliardi in 6 anni che vuole investire. Ma non basta fare questo sul patto, occorre anche fare altro, perché noi possiamo correre a non finire per produrre meglio, di più e meglio nelle aziende e ottenere anche più salario, ma se il contesto è quello che è, energia che costa di più, infrastrutture che mancano, la mafia che imperversa, la pubblica amministrazione che non serve, le tasse esorbitanti per lavoratori, pensionati e imprese, è chiaro che quel costo del prodotto che è maggiore, che si è sviluppato in più rispetto a ciò che è diminuito in Germania, sta proprio lì, sta nella inattitudine dei governi centrali degli ultimi vent'anni e dei governi locali degli ultimi vent'anni nel non aver curato questi aspetti così essenziali, perché tutti parlano, ogni volta mi viene da ridere, ci vogliono politiche industriali, ma cosa sono queste politiche industriali se non occupandosi di questi aspetti? Io ringrazio il segretario della CISL Raffaele Bonanni, ricordo a tutti coloro che sono in ascolto, la FIOM ha rifiutato di venire qua dicendo che io non sono un interlocutore accettabile, sono al di sotto di ogni livello di accettabilità. Ricordo allora a voi in ascolto, mi limito a leggere qualche frase dell'intervista oggi di Maurizio Landini, il segretario della FIOM all'Unità, facendolo quindi qui presente attraverso le sue parole. L'opinione di Landini della FIOM è che la disdetta di Federmeccanica è una dichiarazione di guerra non tanto alla FIOM, ma, parole sue testuali, a tutti i lavoratori metalmeccanici, perché si vuole far saltare il loro contratto nazionale lasciandoli privi di qualsiasi strumento di contrattazione, secondo il presupposto inaccettabile, parole di Landini, che le industrie possano funzionare ed essere competitive solo cancellando i loro diritti fondamentali. Eccoci tornati, siamo con il ministro welfare Maurizio Sacconi, che io ringrazio. Gli chiedo, nell'autonomia con cui le parti sociali ovviamente regolano i loro rapporti, disciplinano i loro passi avanti condivisi e i loro scontri per chi come la FIOM e la CGIL sono in dissenso sia rispetto all'accordo interconfederale del febbraio 2009 sia rispetto al contratto dei metalmeccanici, che è quello che resterà vigente dopo il recesso deliberato all'unanimità ieri da Federmeccanica, ma sia pure nell'autonomia delle relazioni tra parti sociali, la valutazione sua per questo nuovo passo in avanti e per le possibilità che apre da una parte e per il rischio di conflittualità che la FIOM rilancia con toni così duri, qual è, ministro? Beh, io credo che innanzitutto, e penso lo abbiate già fatto, vada ridimensionato il significato della decisione di Federmeccanica. È un atto assolutamente formalistico di un contratto nemmeno applicato, utile probabilmente soltanto a dare maggiore certezza al contratto che è in vigore e che non fu sottoscritto dalla FIOM, perché il contratto in vigore oltretutto è molto più conveniente di quel contratto che è stato disdetto, quindi per i lavoratori metalmeccanici non cambia assolutamente nulla, anzi probabilmente viene conferita, come dicevo, maggiore certezza in termini formali alla vigenza del contratto che ad essi viene applicato. Piuttosto vedremo come si evolveranno le relazioni industriali nei metalmeccanici e non solo nei metalmeccanici, se cioè saremo davvero in grado di dare sempre più valore al contratto di lavoro prossimo alle persone, nelle aziende o nei territori, perché il farlo in termini prossimi alle persone in carne ed ossa e alle imprese nei loro impianti, nei loro bilanci, significa togliere al contratto qualunque significato ideologico, individuare pragmaticamente il punto di incontro tra le esigenze dei lavoratori a una buona qualità del lavoro e a una buona remunerazione del lavoro e dall'altra l'esigenza delle aziende per una maggiore produttività del lavoro, una maggiore competitività. Nei giorni scorsi il governatore della banca centrale tedesca, posto che di questi tempi tanto si evoca la Germania, il governatore Weber ha detto come una delle ragioni di forza della Germania sia stato il cambiamento delle relazioni industriali, proprio nella misura in cui è stato spostato dal contratto nazionale agli accordi di tipo aziendale e territoriale. Il governo italiano, non dimentichiamo, ha introdotto una tassazione leggera sul salario che è espressione di questi accordi, tanto che anche nel caso di Pomigliano, quei 3.000 euro lordi che dovrebbe guadagnare in più il lavoratore metalmeccanico di riferimento, credo il secondo livello, dovrebbero essere ragionevolmente tutti o quasi detassati attualmente al solo 10%, vedremo se in futuro sarà possibile anche meno, in quanto espressione di un accordo aziendale per la maggiore produttività. Lei è convinto che si tratta di battaglie di retroguardia che continueranno, per così dire, a essere dei fuochi accesi, ma che, come testimoniato dal posto dove si è votato, Pomigliano, come raccontava prima Bonanni, alla fine poi se chi invoca la democrazia e si misura nel voto e perde, come fa col passo più lento a dire no, non dovete andare avanti se ha perso? Ma per l'esperienza che ha lei, Sacconi, di osservatore di lungo corso della vita del mondo del lavoro italiano e anche dei conflitti di altre epoche, in realtà l'abbiamo proprio alle spalle quel passato in cui era lo scontro ideologico, i ruoli di parte, l'impossibilità di un interesse convergente con i nuovi strumenti come la detassazione, però era l'impossibilità ideologica, ma è alle spalle oppure quanto bisogna guardarla ancora con il timore che possa bloccare tutto, forse anche in altri tempi come faceva Confindustria, accettando che bloccasse tutto pur essendo minoritaria. Oggi invece si può serenamente dire guardate, poi vi siete liberi di dissentire, ma una volta che il vostro no è minoritario si va avanti, ragazzi, che penso? Beh, ci sono stati due tempi nel sistema confindustriale. C'è stato un tempo nel quale il sistema confindustriale è arrivato addirittura a concordare una terribile scala mobile che ha portato il nostro paese e i salari dei lavoratori in una condizione terribile. E dall'altra parte c'è stata una Confindustria, quella di Marcegaglia più recentemente, che ha deciso, che ha spezzato la logica del veto, dell'unanimità a tutti i costi, e lo ha fatto dopo sostanzialmente 12 anni di negoziato, 12 anni, e di questi tempi sono un'epoca, e credo che ormai siano avviati processi irreversibili, perché non dimentichiamo che i lavoratori sindacalizzati in Italia sono circa un terzo del totale, e in questo terzo le componenti riformiste sono significativamente maggioritarie. La stessa, credo che nella stessa CGIL ci siano differenze fra quello che accade nei metalmeccanici e quello che accade nelle altre categorie. Siamo in presenza quindi probabilmente di ultime ridotte di un mondo antico che è soprattutto finito per ragioni oggettive. Non voglio parlare di una sempre idilliaca convergenza tra capitale e lavoro, ma penso che prevalga proprio là dove il management, l'imprenditore e i lavoratori convivono, prevalga una propensione alla condivisione dei destini dell'impresa. Certo, ha ragione il sindacato, il governo ha sempre condiviso questa richiesta, che occorre che la condivisione sia maggiore anche nel momento in cui si determinano risultati positivi nella vita dell'impresa. Questo non significa introdurre confusioni nel ponte di comando dell'impresa. Viviamo un tempo nel quale abbiamo bisogno anzi di figure uniche responsabili della conduzione della cosa pubblica come della cosa privata, figure cioè di sintesi, diciamo, di meccanismi che possono essere anche partecipativi, ma che poi devono vedere una figura chiaramente responsabile del risultato. Ma pensare piuttosto al fatto che i lavoratori possano essere ancor più coinvolti nella vita dell'impresa, nel conseguimento dei risultati dell'impresa, anche attraverso un salario che largamente si definisce in ragione di quei risultati. Questa è l'evoluzione che si è avviata. Questo richiede certamente un contratto nazionale più leggero, di garanzia, di tutele essenziali, e poi una forte adattabilità tra le parti nel concreto delle diverse situazioni dei diversi territori. Mi sembra che questo processo corrisponde proprio alla natura delle persone, corrisponde alla all'esigenza di imprese, è un processo naturale che quindi ha una forza intrinseca. Credo anch'io, come ha detto il Ministro, che il mondo nuovo in cui stiamo, in cui sappiamo chi traina e chi trainerà per anni i mercati mondiali, soprattutto della manifattura, noi tendiamo a dimenticare che siamo, restiamo e abbiamo difeso bene in questa terribile crisi la nostra posizione di quinta potenza manifatturiera al mondo, dopo la Cina, dopo gli Stati Uniti, dopo Giappone e la Germania. La Germania sta facendo benissimo, mentre il resto del mondo avanzato va giù, ma poi ci siamo noi, e questo, per difenderlo, ha bisogno di condivisioni nuove, di capacità di sapere interpretare stabilimento per stabilimento dov'è l'interesse convergente per difendere il lavoro, per lavorare meglio e per avere più soldi tassati in tasca ai dipendenti. Io credo che in questo non ci sia l'abdicazione a diritti, non ci sia imboccare la strada di una resa a interessi più forti, non ci sia lo schiavismo come trovate oggi scritto nelle interviste all'Unità, al Manifesto, come trovate con toni altrettanto duri nel commento di Luciano Gallino su Repubblica. Mi dispiace molto che la FIOM mi abbia messo al bando, perché è da anni che vi propongo, anche qui con Giorgio Cremaschi, con Landini, con i loro rappresentanti, degli animati confronti, certo, perché la pensiamo diversamente, ma rispettosi. Lo stesso rispetto che essi invocano lo vogliamo anche noi, che fino a prova contraria però iniziamo a essere finalmente, con regole nuove, interessi condivisi, maggioranza in questo paese. E la maggioranza decide, questa è la democrazia, per difendere meglio il lavoro. Questa è la mia opinione finale, con il rispetto di chi anche oggi, parecchi di voi, mi hanno insultato anche oggi, perché ci sono qua i messaggi che dicono che sono un servo, che è una trasmissione solo per Confindustria. Non è così, si tratta di spiegare da un punto di vista come il mondo del lavoro può evolvere, condividendo e contrattando sindacati dal loro punto di vista e imprese, le nuove necessità, senza di cui il lavoro non si difende, se è questo che volete. Poi potete lottare, ma le fabbriche poi chiudono, e cosa gli spiegate ai lavoratori? Questa è la mia personale opinione di oggi. Ringrazio il ministro Sacconi, come ringrazio Raffaele Bonanni, Maurizio Del Conte, il professore Del Conte che negli Stati Uniti abbiamo rotto le scatole anche oggi, e Pietro De Biasi, il direttore di risorse umane del gruppo IVA, che per Federmeccanica è stato qui con noi all'inizio. Grazie in regia Carmelo Lauricelli e Alessandro Marco Turli, come sempre preziosissimo per me in redazione. Lì nel giornale radio, appuntamento a domani.